Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Una volta arrivato alla Elliott School di Boston, una delle prime cose che feci furono dei test attitudinali. Perché certo la grammatica inglese e la storia americana erano importanti, ma altrettanto importante a scuola, in America, era lo sport. Ciao, sono Giovanni, vivo a Montefalcione, un paese in provincia di Avellino. Ho 49 anni, lavoro all'ANAS e sono geomel. Che ci siano i mondiali o le elezioni, che ci sia la crisi di governo o il Festival di Sanremo, qualunque cosa accada là fuori, noi continuiamo a chiedervi di raccontarci le vostre storie e continuiamo a mandarle in onda tutti i giorni alle 16 su Radio 24. Buongiorno a tutti, questa è Voi Siete Qui, io sono Matteo Caccia e oggi, tanto per cambiare, raccontiamo una storia. La storia di Giovanni è una storia che parla di sport, ma parla soprattutto di migrazione, di emigrazione, di immigrazione e di ritorno a casa. Parla di tennis, ma parla di due posti lontanissimi apparentemente, direi geograficamente, ma non così tanto nella testa e nella vita di Giovanni, che sono Boston e Montefalcione, in Irpinia. Oggi abbiamo cominciato con una sorta di elenco dei migliori tennisti, anzi dei vostri tennisti preferiti. Abbiamo cominciato a farlo su Voi Siete Qui Radio 24, sul nostro profilo Facebook. Ne sono arrivati tantissimi e tutti diversi tra di loro. Boris Becker, Jimmy Connors e poi ancora Gattone Messir, Sampras, Jimbo Connors, ancora McEnroe, Goran Ivanisevic, Connor, Borg, Ivan Lendl, McEnroe, Goran Ivanisevic, cavallo pazzo. Vincere Wimbledon partendo come wild card è stato straordinario. Connors, McEnroe, Federer, Andre Agassi, Marasa Fenn, Pat Cash, Federer, Ivan Lendl, Pete Sampras, Roger Federer, McEnroe, Barazzuti, Boris Becker, Ocleppo. Spero di leggere bene, era italiano Ocleppo, giusto? Era degli anni 70, mi pare. Agassi, Bjorn Borg, Guillermo Vias, Yannick Noah. 349-238-6666. Un semplice lungo elenco di questi eroi, di fatto, che si vedono sui campi da tennis. Il tennis non è uno sport così facile da seguire. Ci sono partite che durano un'infinità, a parte quella che è finita pochi minuti fa, in cui Djokovic ha, come al solito, preso in mano l'avversario, il povero Gulbis l'ha scosso un po' e si è portato a casa la finale del Roland Garros di domenica. Il vostro tennista preferito di qualsiasi epoca, 349-238-6666. E adesso però prendetevi i soliti 10 minuti di tempo per ascoltare la storia di Giovanni, che parla di un bambino piccolo che va a Boston e poi torna e ha un grande sogno che riesce a realizzare. Ho cominciato a giocare a tennis a Boston, Massachusetts, Stati Uniti, nel 1975. Ora, che ci faceva un bambino di 10 anni nato a Montefalcione, provincia di Avellino, dal papà Sabino operaio e dalla mamma Esther casalinga, a Boston nel 75? La risposta è semplice: eravamo immigrati. La mia famiglia, infatti, nel 74 si era trasferita da Montefalcione, Irpinia, Italia, a Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America. La mia scuola si chiamava Elliott School ed era una di quelle tipiche scuole americane, scuola pubblica naturalmente, che si vedono nei film. Sì, poi quali telefilm? Sì, perché io e la mia famiglia non è che vivessimo in uno di quei bei quartieri residenziali per cui Boston è rinomata, ma nel famoso, forse dovrei dire famigerato, quartiere italiano di North End. Oddio, in realtà più che italiano, irlandese. Una volta arrivato alla Elliott School, una di quelle prime cose che feci furono dei test attitudinali, perché certo la grammatica inglese, la matematica, la storia americana erano importanti, ma altrettanto importante a scuola in America era lo sport. E allora giù prove sportive come piovesse: hockey, basket, baseball, football americano, da non confondere con il football inglese, che in America si chiama soccer e che gli americani degli anni 70 non è che ci impazzissero. Anzi, e poi, finalmente lui, il tennis. C'era da pagare una retta, non ce lo potevamo permettere, insomma, essendo immigranti, per cui eravamo andati là per lavorare, i miei, per farsi, diciamo, un gruzzoletto e poi costruire casa a Montefalcione, cosa che ha fatto poi. Tanto per cominciare, la racchetta non è che fosse la mia racchetta, era della scuola. Una racchetta di legno pesante con le corde in budello, che a me sembrava enorme, quasi una spada da tenere in pugno. Eppure c'era qualcosa in quello sport che mi sembrava familiare, un po' azzeccato per la mia indole montanara, un po' solitaria. Insomma, è cominciato così il mio amore per il tennis, a Boston, negli Stati Uniti, con i tornei scolastici. qualche partita vinta, qualcuna persa, ma soprattutto un sacco di altri ragazzi come me con cui, con la scusa del tennis, finivi per parlarci, per scambiare idee, sogni, battute. Ti davi di gomito quando passava qualche ragazza, insomma, quelle cose che fanno quelli di 10 anni in ogni parte del mondo. Più o meno, insomma. Poi, nel 1976, i miei decisero di tornare in Italia. Troppa nostalgia delle montagne di casa, troppo grande l'oceano che ci separava da quelle montagne. E allora, rieccoci. Le nostre montagne erano belle, ma in quanto a campi da tennis a Montefalcione nel 76, non è che proprio ce ne fossero da buttare. A dire la verità, a Montefalcione nel 76 di campi da tennis non ce n'era nemmeno uno. A scuola poi, figuriamoci, a stento si praticava la pallavolo, in uno stanzone che chiamarlo palestra era un'offesa per i greci che l'avevano inventata. Questo era l'andazzo alla scuola media Giovanni XXIII di Montefalcione, Irpinia, Italia, nel 76. Insomma, un andazzo che il tennis te lo sognavi, al massimo te lo guardavi in TV. Sì, perché c'era una cosa positiva nel 76 in Italia, e quindi pure a Montefalcione. È che la TV era diventata da poco a colori, e soprattutto in TV, sulla Rai, ogni tanto il tennis te lo facevano vedere. E che tennis, eh? Tanto per fare qualche nome: Panatta, Borg, Nastase, Ash, Connors e McEnroe. E questa cosa degli eroi con la racchetta al posto della spada è andata avanti per un bel po', perché di giocarci a tennis manco a parlarne. E il fatto che non ci fossero campi da tennis non era nemmeno il problema principale, perché, non dimentichiamocelo, c'era il non trascurabile dettaglio della racchetta, che sì, era pesante, di legno, con le corte in budello e tutto quello che vi pare, ma più che altro era della scuola, la famosa Elliott School. E una volta tornato in Italia era rimasta là la racchetta, alla Elliott School, a Boston. Poi, all'improvviso, succede una cosa che non te l'augureresti mai. Una domenica di fine autunno nel 1980, all'incirca all'ora di cena, la terra si mette a tremare. E lo fa in un modo che sembra che si voglia aprire e inghiottire tutto e tutti. Poi però finisce di tremare. E alla fine si è portata via un bel po' di vite e di case. E con l'elenco delle cose che il terremoto si è portato via, potrei andare avanti un bel po'. Ma una cosa, incredibilmente, me la regala il terremoto. Un campo da tennis. Me and my friend Adam gonna get some beers, and then we're gonna go down to the park and drink them there. Bask out in the sun, bring a guitar and play some songs, call up our friends and invite them out to share. What might be the last weekend of the summer? Cause September's getting colder as it goes, and we haven't done enough of this simple kind of stuff. This year it's clear we're getting older and it shows. Work weeks make us weary now, and school's a distant memory, and it's easy to ask questions of ourselves, like where it is we're going now, and what we had to show for all those sunny days shut up in the shells of expectations of our ultimate directions, of the stations that we should have reached by now, when we haven't read the script and our tender wings are clipped, and yet we're scared we might be letting someone down. Heartbreak songs when nothing's really wrong, and then we smile when we're asked and we say that we're fine. We're drifting through our middle days, we're creeping into middle age, setting in our ways, but now it's time to decide. Now it's time to draw a line in the sand and ask what's more important than days like today. So grab some beers, call your friends and meet us here in the summer park with me and my friend Dan. Già, un campo da tennis a Montefalcione, chi l'avrebbe mai detto? Anzi, un vero e proprio centro sportivo, con campo di calcio, pallacanestro, cose così, insomma. Buone al massimo per prepararsi al ratto delle Sabine, ma poi, dulcis in fundo, ecco l'arena adatta a me. Un campo da tennis nuovo di pacca. Certo, ci misero un po' a tirarlo su sto centro sportivo, con i fondi della famosa legge 219 del 1981, per capirci la legge per la ricostruzione dei centri danneggiati dal terremoto di Irpinia. Nel frattempo i problemi più impellenti in materia tennistica erano risolti, ma ci voleva una fonte di reddito alternativa. Hai visto mai che non ce l'avessi fatta a sfondare con il tennis? E allora, a Montefalcione e dintorni, Irpigna, Italia, con tutte quelle case da ricostruire, agli inizi degli anni Ottanta, che cosa volete che mi venisse in mente di fare come eventuale fonte di reddito alternativa al tennis? Naturalmente, il geometra. Intanto il tennis aveva cambiato completamente faccia. Fuori i playboy era iniziata l'epoca dei robot. Alla fine degli anni Ottanta i nomi erano Lendl, Edberg, Sampras, Noah, Chang, Agassi. Gente programmata in laboratorio, senza un filo di romanticismo. Tanto era il fascino del tennis, complice anche un ritrovato diffuso benessere grazie alla ricostruzione post-terremoto, che gli iscritti al torneo di Montefalcione erano addirittura 120. Era il 1988, avevo trovato lavoro e con quello uno stipendio, modesto per carità, ma pur sempre uno stipendio. Era giunto il momento di passare ad una racchetta vera, una Prince in carbonio grafite, del costo astronomico di 480.000 lire. Con quell'arma letale in pugno vinsi il mio primo torneo, quello di Montefalcione, che nel frattempo era praticamente divenuto il grande slam dell'Alta Irpigna. E lo dico senza alcuna ironia, sia ben chiaro. La più difficile quando io ho avuto un crampo al piede destro e nonostante che ci avessi avuto il campo io sono riuscito a vincerla, insomma, e mi sono bloccato, però nonostante ciò sono riuscito a portare avanti la partita e a vincerla, tra l'altro. Le cose cambiavano in fretta e dopo diverse esperienze, alcune davvero esaltanti, come la costruzione della nuova tratta ferroviaria Roma-Napoli ad alta velocità, finalmente nel 98 approdai all'ANAS, destinazione Uffici di Salerno. Anzi, per la precisione, il team di direzione dei lavori di ammodernamento niente poco di meno che della famosa e purtroppo immeritatamente famigerata autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il tennis ormai era diventato un piacevole passatempo e il centro sportivo di Montefalcione è un vero e proprio tennis club, con bar, clubhouse e arte varia, roba che nemmeno a Palm Springs. Poi, nel 2008, un messaggio di posta elettronica nella casella aziendale ci comunica che chiunque dell'ANAS ne abbia voglia e tempo può iscriversi e partecipare al torneo organizzato dall'Unione degli Industriali di Roma, di cui l'ANAS fa parte. Il torneo si svolgerà presso il tennis club del Foro Italico. Rileggo più e più volte perché non ci credo. Foro Italico. Sì, il Foro Italico, quello con le statue di marmo, tanto per capirci, dove negli anni 70 gladiatori dai nomi tipo Adriano Panatta, Bjorn Borg, Jimmy Connors e Ilina Stase avevano giocato. L'anno è il 2013, il mese ottobre, il giorno domenica, e io sono in finale. Certo, questa è la finale di doppio. Certo, non si può giocare al Foro Italico perché c'è la Roma all'Olimpico e l'Olimpico è proprio lì, a un tiro di schioppo dal Foro Italico. Ma questi sono dettagli insignificanti. Sento che questa volta ce la posso fare. La coppa del primo classificato è lì, quasi la tocco, quasi mi vedo alzarla sulla testa in segno di trionfo. Si comincia alle 15, c'è un bel sole autunnale. Io mi sento un leone, ma c'è un problema, è il mio partner. Siamo in campo dalle 11, abbiamo già sul gruppone 3 partite e lui ha dato tutto. Il primo set è un testa a testa sfibrante, prima 1-0 per loro, poi 1-1, così via, ma alla fine la spuntiamo noi per 4-2. Il secondo set partiamo male, andiamo sotto di 2 game, ma poi riprendiamo e li asfaltiamo, vinciamo anche il secondo set, 4-2. La partita è durata in tutto neanche 2 ore. 2 ore di tempo sospeso, surreale, in cui mi sono passate davanti agli occhi la Elliott School, l'odore di melassa, la palestra in una stanza, Montefalcione con il tennis club e le montagne tutto intorno. E poi anche il Vietnam. E le Termopili, o forse il Foro Italico, con tutti quegli eroi in calzoncini bianchi e racchetta di legno, e tutta quella polvere rossa che sa di tabacco, melassa, sudore, fatica e riscatto. E in mezzo a quegli eroi, questa volta, ci sono anch'io. Let's kiss, ain't got no. You see, we go. And E secondo voi, Giovanni, nel momento in cui ha scelto la foto da inviarci, che potete vedere sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina, voi siete qui, ecco, secondo voi che foto ha scelto? Sarà quella in cui lui è elegantissimo, con uno sciarpino al collo, tiene in braccio una coppa e alle sue spalle una scritta enorme: Foro Italico. Pronto Giovanni? Ciao. Come stai? Bene, te? Io benone, ti ringrazio. Senti Giovanni, la tua storia era molto più lunga di così e per farla stare in una puntata ho dovuto stringerla un po', quindi me lo perdonerai, però diciamo l'essenziale c'era: Boston, la scuola, il ritorno a Montefalcione, il terremoto. Scusami, andiamo un attimo sul terremoto. Quanti anni avevi nel 1980? 15 anni. Cosa succede? Stai dormendo? State mangiando? No, stavamo davanti al camino e all'improvviso è venuto giù, è iniziato a tremare tutto. Ma voi siete riusciti a uscire? Vi siete trovati in strada? Diciamo dopo che è finito siamo riusciti a scendere. Ah ok, perché durante tutto, quanto sarà durato? So che è difficile. Un minuto e mezzo, sì. Ammazza. E quando siete usciti la casa era rimasta in piedi o...? No, in piedi, perché per fortuna era di nuova costruzione, era recentemente fatta, diciamo dai stenti fatti dai miei genitori in America, insomma, come hai raccontato, nel 74. Quanto siete rimasti a Boston? 2-3 anni, giusto? 3 anni. Sì. 3 anni. E in 3 anni sono riusciti a raccimolare i soldi per costruire la casa? Tra mio padre e mia madre, sì. In quell'epoca si riusciva, insomma. Certo, insomma, in quell'epoca lo immagino. Senti, invece, tu che ricordo hai degli Stati Uniti? Cioè, ti è rimasto l'inglese, lo parli ancora? Sì, sì. Ah, ok. Qualcosa. Diciamo, quello quindi quantomeno ti è rimasto. Invece, che ricordi, che America era quella degli anni 70? Boston, poi, in realtà, che insomma è una parte Boston, degli Stati Uniti. Perché, diciamo, era la parte in cui c'erano tutta la maggior parte degli italiani immigranti là, perché Boston è, diciamo, era la prima città che, venendo dall'oceano, che incontri. No, certo. Boston no, con New York, insomma. Certo. Per cui erano... Ma quindi frequentavate una comunità italiana? Ce n'erano diversi con cui... Sì, anzi, c'era proprio una contrada del paese mio, di Montefalcione, trasferita negli anni 50-60 là. Ah, quindi avete incontrato persone che conoscevate? A parte che c'era mio zio, mia zia. Chiaro, insomma, come sempre succede, si raggiungono dei posti in cui c'è già qualcuno che di solito ti conosce, ha un contatto. Senti, visto che sto chiedendo il tennista preferito e ne arrivano una marea: Paolo Canè e poi ancora Vitas Gerulaitis, uno che sapeva vivere. Sì, giusto. Poi Boris Becker ancora, Stefan Edberg. Qual è il tuo, Giovanni, se dovessi sceglierne uno su tutti? Ivan Lendl. Lendl, sì. Ah. L'uomo di ghiaccio. Esatto, che in realtà appartiene a quella categoria lì, non era proprio uno temperamentoso, no. Era uno che si metteva lì e tirava delle grandi mazzate per lo più. Sì. E tu che tennista sei invece? Ma prima di attacco, adesso di fondo. Okay. Cioè prima riserve in volley. Sì, infatti. Adesso invece stai là sul fondo. Sì, sul fondo, aspetta. Senti, invece dimmi qualcosa, e poi ti devo salutare, dimmi qualcosa di questa Salerno Reggio Calabria. Tu sei ancora lì, lavori ancora lì? Certo, seguo i miei lavori, da 16 anni ormai che sto là, quindi... Senti, ma se dovessi dire... Le varie problematiche e tutte, insomma... Appunto, visto che, insomma, come dici giustamente tu, è, insomma, famigerata e anche, diciamo, un po' erroneamente famigerata... Sì, bravo, però erroneamente famigerata, perché... Però quali sono, Giovanni, qual è il problema sostanziale di questa strada, se dovessi... Perché appunto, comunque tutti in Italia, quando si parla di una strada che non funziona, parlano della strada Reggio Calabria, quindi... Dipende dai punti di vista, va. Dipende da dove la prendi, se a salire o a scendere. Certo, se le prendi da Salerno può tranquillamente arrivare a metà strada, oltre, insomma, più di due terzi, anzi molto di più, insomma, sono stati realizzati, quindi. Però siamo in dirittura d'arrivo, quindi. Quanto manca? Non lo posso dire. Non lo possiamo sapere. Giovanni, quando è che giochi la prossima partita? Io spero spero quanto prima, a ottobre, come che mi arriverà sicuramente la convocazione. Convocazione, certo. Giovanni, ti ringrazio per la chiacchierata e per la storia, e ti faccio tornare alla Salone Gio Calabria e al tuo tennis. Grazie ancora. Ti ringrazio. Ciao, a presto. Ciao. 349-238-6666, Connors e poi ancora Landl, McEnroe. Io prima di chiudere, di augurarvi un buon fine settimana, il primo vero settimana dell'estate, preparatevi perché ormai lo sapete, sta arrivando. Com'è che lo chiamano? C'ha un nome anche sto anticiclone. Vabbè, chi se ne frega. Comunque farà caldo. Se avete caldo e siete chiusi in casa con l'aria condizionata o semplicemente con le finestre chiuse, andate sul sito di Radio 24 e iscrivetevi gratuitamente al live del 26 di giugno in cui suonerà dal vivo Mauro Tolini e la sua band. È facilissimo, radio24.it, trovate proprio il boxino con scritto voi siete qui, ci entrate, è un mini sito, vi iscrivete gratuitamente. Ci vediamo il 26 di giugno. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Hina. Grazie soprattutto a Giovanni, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.